Ehi, c'è qualcuno in casa? Ehi, sono io! Come io chi? Sono Chuck Bird. Buongiorno! Hangers, when it used the door, so use it. Ben ritrovati, passerottine e passerottine care, anche per questo venerdì. Venerdì 16 novembre, thank God it's Friday. Siamo arrivati alla fine della settimana e ci attende, naturalmente, un super weekend rock and roll. Rimanete con noi perché noi siamo i migliori in città. Zombies, she's not there. Buongiorno da Chuck Bird. She lied. Well, no one told me about how many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had to. There. Questa la voglio dedicare a tutti quelli che ascoltano l'Early Bird Special nelle cuffiette, magari andando al lavoro o a scuola, a bordo di un autobus. She's not there. Ehi, lei non è lì. Ma dove è finita la biondina che si sedeva sempre in fondo all'autobus? Ammettetelo. Siete anche voi di quelli che si innamorano istantaneamente, biodegradabili al 100%, che al mattino buttate l'occhio sempre verso la migliore pollastra del bus. Bene, dedicategli una bella canzone, magari un bel pezzo di Carlos Santana. Sometimes I wonder how I'd ever make it through, through this world without having you. I just wouldn't have a clue. Cause sometimes it seems like this world's closing in on me, and there's no way of breaking free. And then I see you reach for me. Sometimes I wanna give up, wanna give in, I wanna quit the fight. And then I see you, baby, and everything's alright. Ever do what the touch of your hand can do. It's like nothing that I ever knew. Hey, and when the rain is falling, I don't feel it, cause you're here with me now. I wanna look at you, baby. It's all I'll ever need. It's all I'll ever need. When I see Chuck Bird ha sempre in serbo per voi delle belle storie di rock and roll, perché ha avuto la fortuna di assistere a un sacco di incontri strabilianti, uno dei quali successe quasi 30 anni fa in un pub di Londra. Uno di fronte all'altro c'erano i due più famosi mod delle loro rispettive generazioni, Pete Townshend e Paul Weller. Cosa si sono detti? Lo saprete dopo gli Sweet. Action! Of me to satisfy your intellectual need. Do you want action? Action. Go to Vi voglio parlare di uno strano incontro avvenuto il 3 ottobre del 1980 tra Pete Townshend, chitarrista degli Who, e Paul Weller, leader dei Jam, una formazione che a quei tempi stava realmente riportando in vetta alle classifiche il suono e l'attitudine che rese famosi gli Who 15 anni prima. Paul era un grande fan degli Who, ma non per questo si dimostrò troppo accondiscendente nei confronti del suo idolo Pete. Townshend aveva dichiarato qualche giorno prima che i Clash dovevano per forza andare in tour in America. Paul Weller lo attaccò immediatamente su questo punto, dicendo che se una band inglese va in America è chiaro che lo fa solo per questioni finanziarie. Pete sembra dissentire, dicendo che lui ha suonato spesso gratis, solo perché il suo scopo era far conoscere la band e sperare che la gente tra il pubblico compri i suoi dischi. Paul allora lo incalza dicendo che senza gli inglesi il rock americano sarebbe ridicolo, e Pete di rimando dice che forse lo è già. I due ridono, ma Paul Weller non molla l'osso, chiedendo perché è l'America e non per esempio la Cina comunista. E aggiunge che gli Who vanno solo in America perché è il più grande mercato che esiste, e poi vanno in Giappone solo perché è il secondo grande mercato. E Pete candidamente ribatte che sono stati anche in Francia, ma solo perché era più vicina. Pete ride, ma non Paul. Allora il chitarrista degli Who aggiunge: andiamo in America perché lì almeno parlano inglese. E Paul di rimando: non sono d'accordo. Pete non capisce a cosa si riferisce Weller, insiste: no, te lo giuro, lì parlano inglese. Paul allora comincia finalmente a rilassarsi e aggiunge: anche su questo non sono totalmente d'accordo. Dovevate esserci, passerottini e passerottine, due generazioni di mozza a confronto. E che scintille. Eccoli Jam, al meglio della forma, con A Town Called Malice. Town Called Malice, The Jam, all'Early Bird Special, che in questo momento si prende un po' di pausa perché, accidenti, è arrivato il momento del mio caffè nero bollente, naturalmente portatomi da questa deliziosa ragazza che risponde al nome di Cherie. Guarda che ti saluta un sacco di gente, Cherie. Stai diventando una protagonista senza nemmeno aver mai detto una sola parola qui all'Early Bird Special. Prima o poi ti convincerò a salutare i nostri passerottini e passerottine. Per il momento ti ringrazio moltissimo di questa tazza di caffè nero bollente. Merci, Cherie.